Potevo stare là e invece presi quella decisione. Sapevo tutto già e fu il coraggio, forse fu ambizione. E con gli amici adesso a casa mia si parla spesso di filosofia. Potevo stare là sugli occhi di ragazze innamorate o dentro il cuore di quel pazzo rubacuori di mio padre. E quella notte lui non saprà mai col vino dell'amore l'ubriacai. E il 7 di dicembre stavo là, è nato il fiocco azzurro sul portone. Io invece in culla giù in maternità sentivo d'aver preso già il bidone. Potevo stare là dove le stelle sono solo stelle, e invece sono qua e vedo quelle brutte e quelle belle. Possibile che non ricordo più quello che è stato, quello che fu. È il 7 di dicembre, eccomi qua, ma non è quello di tanti anni fa, di quando in culla giù in maternità sentivo c'è qualcosa che non va. E adesso qui con te e ho tanta voglia di fare l'amore, mi stringo forte a te e sento che mi batte forte il cuore. E forse perché t'amo, o chi lo sa, forse la voglia di tornare.